anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qua sulle frequenze di Radio Wombat per passare, spero lietamente, il vostro sabato sera qua sulle nostre frequenze. Questo è Basement Records, il programma dei vinili recuperati dall'oblio del tempo. E puntata specialissima stasera con un grandissimo ospite qui con noi stasera, il grande Pero. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie del grandissimo. Ci mancherebbe altro, vorrei vedere volevo fare una puntualizzazione per gli aficionados di Basement Records. Se avete notato, la sigla è cambiata, ormai il teatrino è stato svelato nell'ultima puntata dalla Virgi, visto che la storica sigla di Basement Records, Psyche Rock, dell'Easy Pack Sound, ormai sapete tutti che è andato perduto. nelle puntate precedenti era stato sostituito dall'altrettanto grandissimo disco ristampato ultimamente, il primo disco dell'Onda Rossa Posse, e la sigla era diventata Batti il tuo tempo. Però da questo nuovo ciclo l'ho voluto inaugurare con una nuova sigla, e che questa era un pezzo storico dei Foundations, questa era Build Me Up Buttercup, che da notare che i Foundations, appunto, in quel 1968 furono uno dei primissimi gruppi multietnici a raggiungere le primissime posizioni della classifica di Billboard. Infatti questo singolo del 68 raggiunse addirittura la seconda posizione nelle classifiche pop del tempo, formato sia da inglesi, da un componente che proveniva dallo Sri Lanka e anche da vari altri componenti che erano di origine caraibica, uno dei primi esempi di musica pop multirazziale. Però volevo confortare appunto gli aficionados, perché forse non è l'ultima novità della settimana, è che ci sta che non sia definitivamente perso quel disco di Lazy Per Sound di Pierre Henry, ma ci sta che forse lo possa ritrovare, perché sono risalito all'ultima volta in cui è stato mandato e ci sta che venga recuperato. Però, come... vabbè... volevo partire come sempre ricordando i nostri indirizzi per mettervi in contatto con noi qui di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, wombat.noblogs.org. La nostra frequenza in AM, in onde mediocri, per la zona di Firenze, tra l'altro antenna delle onde medie, rimessa in sesto, ora pompa nelle casse, come si sarebbe detto una volta, rifunziona alla grande. La frequenza è sempre 1359 della vostra autoradio, oppure semplicemente radio, 1359 in AM per la zona di Firenze, ricordo. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social, perché devi sapere, buon Pero, che da che se ne dica, che ci dicano che siamo dal reparto geriatrico, anche noi siamo invece social. Anche voi nel moderno, molto bene, invece molto un filo di modernità ce l'abbiamo anche noi. E i nostri canali social sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, anche per quanto possa essere odiato dalle nostre parti, sul nostro canale, il nostro sito su Facebook è facebook.com/radiowombatfirenze. Quindi a questo punto un bel selfone alla fine della puntata, per potremmo forza probabilmente vederlo su certi canali. Su certi canali potreste vederlo in forma totalmente anonima. Totalmente anonima, anche con delle modifiche compromettenti parecchio, ma rimanete connessi e vedrete la foto che verrà postata sul sito domani o massimo domani l'altro. Mi piace di più il lunedì a me, per ripostare la... Beh, siccome io purtroppo in questo odiatissimo mondo dei social un pochino ci sono dentro, il lunedì dovrebbe esserci tra l'altro più audience. No, ma è perché più che altro è che su Radio Wombat la domenica, poi dopo, quando a fine puntata ricorderò il palinsesto della radio, la domenica è bello pieno il palinsesto di Wombat, quindi cioè preferisco sempre posticipare di una giornata. Certo, mi sembra molto democratico. Assolutamente democratico, ma qui appunto per la... per l'inizio di questa nuova puntata non possiamo altro che ringraziare il buon Pero che ci ha portato la sua personalissima collezione, anzi non proprio personalissima. No, diciamo la verità, facciamo outing, diciamo la verità. Ma ormai ti tocca, eh? No, no, nel senso, insomma, sono questi luoghi giusti dove a Cesare quel che è di Cesare. Quel che è di Cesare, assolutamente, anche perché, insomma, quasi sicuramente ci ascolterà la persona in questione, e quindi se voglio cercare di sopravvivere e di senza danni neuronali e di tornare a casa, soprattutto, e anche di tornare a casa, esatto. Quindi ringraziamo tantissimo, in particolare la mia compagna Veronica Chincoli, che ha messo a disposizione il suo catalogo di vinili, che sentirete a breve, perché il mio è disperso da qualche parte nella cantina di mia zia e attualmente non siamo stati in grado di recuperarlo. Ringraziamo sentitamente Veronica e ricordiamo anche che gli devo una bevuta, se lo dico qua pubblicamente in radio. Anche perché con me sei già a posto, perché ovviamente l'invito qui è accompagnato da una buona bottiglia di vino alle 5 di pomeriggio, e quindi io la preparazione è sempre fondamentale. Assolutamente d'accordo. Anche perché poi volevo aggiungere una cosa, non so chi avrà quei poveri disgraziati che avranno ascoltato le ultime mie puntate, ovvero l'ultima di Tonight Alive e l'ultima di Basement Records, se l'avete ascoltate avrete sentito che c'avevo un ritmo un po' più lento, impasto diverse volte la bocca. Ma perché qui a Radio Wombat era stata chiusa la spina della birra, e capite, cioè, questo disgraziato qua che fa le puntate di ore e ore qua in radio senza un po', cioè è normale, mi si impasta la bocca un po'. No, è proprio una questione di liquidi. e infatti oggi, per l'arrivo del buon Pero, ho deciso di ovviare. Hai deciso di sbronzare il tuo amico, di ovviare a questa cosa. E allora partiamo subito dal primo disco di questa meravigliosa collezione, un classicissimo qua, un uomo vestito di lampadine, questo LP dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e da questa meraviglia dei Pink Floyd che penso non ci sia bisogno di altre presentazioni per un gruppo del genere. E allora facciamo subito partire in memoria anche di quando c'era ancora, era diciamo in sé fra virgolette il buon Sid, il buon vecchio Sid, e allora partiamo subito con questa Shine On Your Crazy Diamond, e questi sono i Pink Floyd, naturalmente qui a Basement Records, Radio Wombat. Questa era la versione live di Shine On Your Crazy Diamond. Bellissimo. Siamo stupenda. Oggi sarà una, credo, una serata dove sceglieremo tutti i pezzi brevissimi. Già subito va dalla partenza. Diventa molto veloci. E mi dicevi prima una cosa da segnalare comunque a proposito dei Pink Floyd. Sì. L'avevo... Vai, prego, prego. No, segnalo semplicemente che, allora, siccome la televisione italiana non aggiungo altro, sì, la televisione italiana, sì, appunto, non aggiungo altro. Sì. No, mediamente. Mediamente, appunto. Invece, aggiungo invece su Rai 5, quindi è la, il canale dedicato alla cultura, tra un'opera e un'altra, che comunque sono molto interessanti da vedere, spesso danno dei documentari che, per quanto siano più o meno sempre soliti e girano io l'ho visto anche più di una volta, infatti molto spesso davano o hanno dato, e penso a questo punto rideranno quasi sicuramente, un documentario molto interessante incentrato su Pink Floyd e soprattutto sulla storia di Syd Barrett, sulla triste storia di Syd Barrett. Quindi, genio assoluto degli anni 60, che poi ha avuto una vita abbastanza travagliata e sfortunata, direi, e da cui poi i Pink Floyd, nonostante inevitabilmente, come ci racconta la storia, hanno dovuto fare in modo di escluderlo nell'impegno dell'essere musicista, perché comunque non dimentichiamoci che, per quanto tutte le rockstar sicuramente più che altro quelle anche moderne, ma anche quelle di un tempo, ovviamente fanno una vita, come direbbe qualcuno, spericolata. Ci vuole anche un minimo di cervello che rimane, diciamo, accademicamente dissoluta. Molto, guarda, mi emoziono. Quindi molto dissoluta, diciamo dissoluta, una vita molto dissoluta. E quindi, insomma, e Syd Barrett in realtà già in giovane età, il suo amore, insomma, spasmodico per viaggi, quindi le sostanze, purtroppo hanno fatto in modo che non ritornasse più nel, sottolineo tra virgolette, il mondo reale, anche se poi in realtà all'interno del documentario si capisce anche che, o vengono fuori diverse teorie sul fatto che comunque lui avesse proprio un disturbo, e questo... Sì, no, anche perché poi lui ha fatto due storici album per conto suo, aiutato anche dal resto dei componenti dei Pink Floyd, che sono due capolavori assoluti della storia del rock, e quindi dimostrava che comunque ancora c'era con la testa, artisticamente ancora c'era con la testa, cioè se focalizzato comunque in un obiettivo, è che era uno dei motivi per cui poi l'hanno anche stromesso dai Pink Floyd, che non è che non c'era proprio completamente più, è che era difficile farlo stare, diciamo sul pezzo. Esatto, c'erano un po' di problemi tecnici durante il live, ovvero che molto spesso nei live dei Pink Floyd, quelli degli ultimi anni, prima che decidessero di estromettere Syd Barrett, mentre gli altri si esibivano musicalmente, Syd Barrett spesso rimaneva focalizzato nel vuoto, senza suonare lo strumento, o magari suonando un accordo fisso per un'ora, un'ora e mezzo, che a livello... Ti stavo per dire, cioè potrebbe essere stato tranquillamente un precursore. Diciamo, oggi come oggi... non so se è voluto oppure no. Non si sa, però visto, la genialità va molto di pari passo con... Oppure si poteva dire che si rifaceva ai minimalisti elettronici newyorkesi, alla Monty Young, Marian Zazila, Angus MacLise, John Cale, ai minimalisti, diciamo che si rifaceva ai minimalismo newyorkesi. Ma newyorkese accademico, però probabilmente non era cosciente di questo, e mentre poi minimalismo, non dimentichiamoci anche tutta la scena drone, quindi anche venuta lì, poi su, molto post, esatto, quindi era un precursore probabilmente, con un bel po' di distorsione e amplificatori in più, però potrebbe essere. Comunque purtroppo gli altri non hanno capito, forse hanno tentato di capirlo, cioè non si sa, perché se leggi le biografie e roba così sembra che comunque chi più chi meno ci abbia provato tanto a farlo rimanere dentro il gruppo, anche perché era appunto un componente fondamentale della chimica dei primi Pink Floyd, era assolutamente imprescindibile nei primi lavori del gruppo, però insomma poi la storia è andata da un'altra parte, diciamo. E come secondo album selezionato dalla collezione della Buon Vero, grazie Vero ancora, grazie, Vero. grazie. Abbiamo selezionato un altro discone della Madonna, infatti sulla copertina giustamente c'è scritto Rock Giants Success, e questo è Earthbound dei King Crimson, che evidentemente è una raccolta, e vi faremo sentire uno dei pezzi più famosi probabilmente dei King Crimson, preso dal primissimo album At the Court of the Crimson King, At the Crimson King, ed è il brano di apertura 21 Century Schizoid Man. Questi sono i King Crimson, naturalmente qui a Basement Records, Radio Wombat. Vabbè, che dire di un pezzo come questo, cioè veramente la storia della musica, cioè, tra l'altro questi brani ci permettono anche di divagare, di sollazzarsi nell'attesa del rientro in onda, e mi raccontavi delle cose interessantissime appunto su Fripp, esatto, e sull'influenza appunto che ha avuto Fripp anche nel tuo lavoro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, no, ovviamente i King Crimson sono una pietra miliare non solo per l'aspetto compositivo e musicale di tutti i membri, che anche se sono stati tantissimi, sono tutti musicisti che hanno fatto la storia dello strumento, assolutamente, Tony Levin, assolutamente, e company, ma Adrian Bilou, cioè, esatto, mi dimenticavo proprio lui, di tutto e di più, chi ce l'ha fatta a reggere, chi ce l'ha fatta a reggere, anche Greg Lake. Chi ce l'ha fatta, comunque, dicevamo, a parte appunto la parte quella più, diciamo, nerd da musicista, quella che mi diverte di più sono più i gossip, diciamo, andare un po' a scovare la personalità di questi musicisti in questione, e quindi dicevamo che sono sopravvissuti davanti a una personalità come quella di Robert Fripp, e te mi facevi un paragone molto divertente. Sì, perché in verità è un po' così, cioè tutti i grandi geni in qualunque ambito delle arti, è assolutamente difficilissimo lavorarci insieme, perché appunto, essendo dei geni, oltre a essere avanti, cioè, lo sanno pure di esserlo, esatto, e quindi quello è un grosso problema. Hanno delle pretese incredibili e, diciamo, un personalità po' totalmente tra virgolette sono dei veri nazisti per, esatto, lavorarci, esatto, insieme, esatto. E quindi mi raccontavano, mi ricordo, di un Pistoia Blues, non sono sicuro fosse l'anno famoso del G3, dove c'era Satriani, Steve Vai e Robert Fripp, che tra l'altro Robert Fripp subì tantissime critiche, ovviamente, perché insomma tutti si aspettavano di vedere dei soli a 400.000 bpm al secondo, e invece, se non sbaglio, Robert Fripp, diciamo, nella sua maniera di lavorare si è mosso più nel territorio ambient e sonoro, e prima del concerto un ragazzino andò a chiedere un autografo, un ragazzino aspirante chitarrista, e la risposta da parte del manager Robert Fripp, che ovviamente andarono a comunicare a Fripp di questo infante, di questo dolcissimo e puro infante che voleva un autografo per avere speranza e per avere un po' di orgoglio per poterlo dire ai cari amichetti, Robert Fripp risponde con un sonoro col cazzo, perché io mi sto esercitando per fare il concerto. Quindi definiamo bene la personalità dell'elemento, cioè, e gli aveva chiesto un autografo, roba probabilmente tra i 2 e i 3 secondinetti, sì, penso anch'io, insomma, quindi uno sforzo che poteva anche permettersi, però sappiamo che i geni, insomma, sono un po' fatte. Chi siamo noi per poter giudicare? Assolutamente, no? Qui alziamo assolutamente le mani. Alziamo le mani. L'altra cosa, appunto, che mi introducevi anche prima, per quanto riguarda il mio lavoro di chitarrista, sicuramente Fripp è stato uno dei massimi ispiratori, in quanto le sue scoperte in ambito chitarrista sono tra le numerosissime, le più importanti sono sicuramente l'utilizzo di un tipo di chitarra che permette l'effetto sustain, che sarebbe sostenuto della nota in maniera elettronica, quindi diventa infinito attraverso un magnetismo, senza entrare nei dettagli. E quindi, se vi ricordate anche i soli di Fripp, diciamo, I famosi Frippertronics. Ad esempio, anche i Frippertronics, il suono della corda, il suono della nota rimane costante, non cambia. Esatto. E l'altra cosa, sempre, che anch'io ho preso, che è molto interessante, perché comunque era pionieristica in quegli anni, assolutamente, è l'utilizzo di uno strumento che invece diventa anche non solo chitarra, ma sintetizzatore, attraverso una tecnologia che è stata, diciamo, copyright della Roland, una famosissima marca di strumenti musicali. Si permetteva che il suono della chitarra venisse trasmutato in segnale MIDI, e il segnale MIDI poteva far suonare i sintetizzatori. Da quello tutti i suoni elettronici stimolati attraverso la chitarra che sentiamo, anche non in questo lavoro, ma nei lavori successivi. Di no, questo viene da là, appunto, come ricordavo all'inizio, viene dal primo lavoro ufficiale dei King Crimson, At the Court of the Crimson King, of the Crimson King. Mi intorto sempre a dire il titolo del primo dei King Crimson, è sempre uno scioglilingua. Però vabbè, uno penso dei capisaldi, una pietra miliare di quello che poi è stato definito il progressive rock, ecco, che ha un po' dato le direzioni, appunto, anche del genere. Vabbè, un lavoro che è rimasto, appunto, nella storia della musica rock e della musica in generale, cioè un lavoro assolutamente imprescindibile, secondo me, nella storia della musica rock degli ultimi 50 anni. Ecco. Guarda, io ci aggiungerei anche perché poi, come ho sempre definito, il progressive è una sorta di ponte tra la musica, tra virgolette, sottolineata, colta, e la musica invece quella popolare, no? Esatto, era un po' il tentativo di andare verso, diciamo, la musica classica da parte del rock. Era come, io sono un grande appassionato di jazz, nel jazz questa cosa era successa già da una decina d'anni prima con il lavoro di Miles Davis, che poi ha dato le coordinate per quella che poi è stata definita fusion, ovvero la commistione, l'unione del jazz al rock, che ha generato di tutto e di più, ecco. E poi, appunto, a proposito di questa commistione, di questa unione tra i due generi, poi metteremo anche un disco che appunto avvalorerà questa ipotesi che ora c'è, non è quello che c'è ora sul piatto, perché quello che c'è ora sul piatto, un po' per riagganciarsi alle puntate precedenti di Basement Records, se vi ricordate tutti gli ultimi arrivi delle ultime due puntate, voglio un po' ricordarlo, arrivano, sono vinili che ci arrivano in dote da due storiche radio libere toscane, cioè radio libere nel senso tutte quelle radio che sono nate dopo la liberalizzazione delle frequenze FM nel 1977, e in questo caso erano i dischi prima di Antenna Libera Toscana, che era una storica radio libera della fine degli anni 70 di Firenze, che poi sono andati in dote, diciamo, alla successiva Radio Libera, che era Radio Comanci di Campi Bisenzio, e questi dischi di Radio Comanci, poi grazie al mitico Carlo, che saluto, sono arrivati qua a Basement Records, e ce n'è ancora diversi per fare penso un bel po' di puntate di Basement Records. Questo è uno di quei dischi. E appunto stavo aspettando un ospite come il buon Pero, che so che sicuramente da musicista apprezzerà. Questo disco è di un gruppo storico del krautrock, come non so se sai, io sono un adoratore, oltre che al jazz, anche del krautrock. Questo è un disco dei Popol Vuh. È il disco del 1975, Das Hollelied Salmons, scusate come sempre la mia incredibile pronuncia in tedesco, cerco sempre di fare il mio meglio, e il pezzo è che adesso ci andremo ad ascoltare è il secondo del lato A, è Du Schnoste der Weiber, scritto dal mitico Fricke, dei leader dei Popol Vuh, e non credo che non ci resti altro che ascoltarci questo trip tedesco attraverso la storia del rock degli anni 70. Che ne pensi? Penso, vai, partiamo in un altro viaggione e un'altra divagazione. Ci piacciono, poi dopo... ci piacciono i viaggi, eh? Beh, come dire, siamo partiti con Syd Barrett, rendiamo omaggio. E naturalmente, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Questi erano i sognanti Popol Vuh, un salto nella Germania degli anni 70, che ci sta sempre bene, direi. Okay, sì. Ma assolutamente. E poi ritorniamo nei dischi che ci ha portato. E vedevo appunto, ora per dare un po' di stacco, se no dopo sembra che ce la tiriamo un po' troppo, si dà solo musica, cioè di ricerca. Quando mai? E invece ora con il prossimo, che è un altro discone, che comunque ha sempre fatto la storia perché è di una grandissima musa della New York della fine degli anni 70, della Factory di Andy Warhol. E stiamo parlando della grande Grace Jones. E che dire, un personaggio incredibile, perché ha toccato veramente tantissimi ambiti della musica, supportata da tutta l'intelligenza newyorkese di quegli anni, dal pop al jazz alla disco. Cioè Grace Jones ha fatto veramente di tutto, e in questo album che ci ha gentilmente concesso la tua compagna, vedevo che comunque una buona parte sono, anzi forse probabilmente quasi tutte sono cover, anzi vedendo l'ultima direi di no. Devi sapere, caro Fero, che uno dei grandi classici di Basement Records è che dico che metto un brano e poi ne metto un altro. La povera Virgi ormai era abituata a questa cosa. Un po' di sorprese, insomma. E infatti da questo stupendo album, con questa copertina direi decisamente statuaria di Grace Jones, che sembra veramente in versione di ebano. Bravo, l'hai detto nella maniera più poetica, E, in realtà volevo mettere una delle tante cover che c'erano qua dentro, ovvero volevo mettere la prima del secondo lato, che era Love is the Drug dei Roxy Music, e invece ho visto che l'ultima è un pezzo storico della grande Grace Jones, che è Slave to the Rhythm, Schiavi del Ritmo. Non so se te la ricordi. No, assolutamente no, ora l'ascoltiamo insieme. No, secondo me te la ricordi. Appena già come parte te la ricorderai. Senti? Dai, vediamo un po'. Senti, te la ricordi? Senza volume è improbabile. No, senza volume è John Cage, lo dico sempre io. 4:33? Sì, no, cover. Invece questa ce l'ha. Eccola. To the rhythm. Grace Jones, Basement Records. Radio Wombat. Don't break the chains. Spots will fly when the whistle blows. Questa appunto era la grande Grace Jones con Slave to the Rhythm, uno dei suoi pezzi classici della discografia. Tra l'altro, togliendo questo disco dal piatto in questo momento, vedo che proprio è come se il centrino della puntina nel disco fosse homemade, perché se vedi in realtà il centro, diciamo che non erano proprio lucidissimi. Esatto, no? Perché evidentemente nella stampa del centrino non era poi così centrato, esatto. il foro dove poi sarebbe dovuto andare il perno della il perno del giradischi, e quindi l'hanno fatto da un'altra parte. Cioè, interessante questo, come... può essere appunto oggi varrebbe, ora sentiamo chi lo sa, vale sul mercato. Sentiamo... ai tempi uno poteva essere arrabbiato, ma hanno venduto il pacco, è un disco, invece magari oggi ora magari ti ritrovi un gronchi rosa dei dischi per le mani e non lo vediamo, sai. Vediamo. Tra l'altro ovviamente non è mio, ricordiamolo, quindi lo segnaliamo. Sì, comunque dai, comunque ti rimane in casa. No, direi, comunque, diciamo, poi c'è anche la percentuale per te che te ne sei accorto, e anche quella mi sembra fondamentale. Però ecco, interessante questa cosa, perché ora no, fortunatamente per voi non facciamo la diretta video, anche perché sennò non ci ascolterebbero più nemmeno gli amici più intimi. No, così siamo molto più liberi. E così poi, insomma, no, si può essere tranquillamente disagiati come siamo di solito, senza farlo notare a esterni. E comunque c'è il centrino fuori posto. Però ecco, a questo punto giunti della trasmissione, se abbiamo un altro disco con il centrino con il centrino fuori posto. Il centrino qua sembra fatto per bene, però qua il nostro amico Pero è, oltre a essere un ottimo conduttore di trasmissioni, direi, la ringrazio, soprattutto è un musicista. Ci proviamo. E questo è una rarissima, da quanto mi hai detto, copie nel mondo. Una rarissima copia del suo ultimo lavoro, edita in solo 4 copie in vinile. Poi in CD ce n'è quante ne volete. In CD, ragazzi, anzi abbondano veramente tanto. In CD ce n'è quante ne volete, e anzi dobbiamo direi che per il lavoro davvero maestro che è stato fatto per l'ultimo lavoro del buon Pero, bisognerebbe ringraziare anche qui pubblicamente in radio il grande Mastro Libraio, che grande ha fatto Libraio, Matteo, benvenuti, che ha fatto un capolavoro di Cofanetto, cioè anche il packaging è veramente fantastico, proprio un'opera d'arte. Grazie, non proprio perché non perché ci si conosce, ma veramente perché ormai, cioè, le pubblicazioni sono, la maggior parte sono in MP3 o in streaming. Mettersi a fare un lavoro di puro artigianato come è stato fatto è una roba quasi di altri tempi. Sicuramente, diciamo che non, come dire, nella filosofia del mio progetto non c'è sicuramente un grande amore per i tempi moderni, e qui, o meglio, non diciamolo in maniera negativa, no. Che c'è una voglia di proporre alternative una cosa diversa, e quindi è venuta fuori questa idea, che poi è una commissione di varie professionalità, Matteo benvenuti, e anche Mario Carovani, che è quello, il fotografo che poi ha scattato le foto che troviamo all'interno di questo cofanetto, e quindi c'è proprio l'idea di poter essere invogliati ad acquistare un tipo di supporto, o anche ad essere accompagnati durante l'ascolto da un tipo di supporto che non è anacronistico, come sono purtroppo, per quanto fascinosi, i vinili o le cassette, dicevamo prima che sono tornate, stanno dopo il vinile stanno tornando in auge anche le cassette. Sì, quindi cosa ci aspettiamo? Prima torneranno, non lo so, i dischi di cera di Edison? No, appunto, ne parlavo nell'ultima puntata di Basement con la Virgi, cioè dopo le cassette rimangano solo i DAT. I DAT da riscoprire. Poi. Anche il mini disc lo vedrai in un supporto. Sì. Ecco, però i DAT... ancora meglio, ancora più di nicchia, internazionale, una roba incredibile, ancora più di nicchia veramente. E appunto questo lavoro è un concept album, appunto. Rossana è il titolo del lavoro, e sono le 5 fasi delle elaborazioni del lutto, quindi un concept album. Però vorrei lasciare la parola a te per introdurre il brano che andremo tosto ad ascoltare. Allora, in questo caso è Broken, esatto, quindi quale brano migliore da scegliere per la situazione, quindi il brano Broken, quindi rotto, quindi rotti. E allora, come dicevi giustamente, l'album è un concept album, quindi sempre rilegati, come dire, a una concezione musicale ormai retro, cioè quella di avere un album che dall'inizio alla fine è un discorso, e che quindi sarebbe bellissimo, certo, se venisse ascoltato, perché ha tutta una per conseguenzialità per intero, è una logica. Se pensi in questi tempi moderni, in cui tra l'altro c'è anche un sacco di gente che si sente la musica come guarda i video di YouTube, quindi a velocità maggiorata per perdere meno tempo possibile, è una, roba mortale, una concezione diametralmente diversa. Sì, ecco, assolutamente, quindi folle, anche abbastanza suicida, se mi posso permettere di dirlo, ma ormai non ci spaventa niente. Sì, no, riflettevo proprio in questi giorni quanto, ad esempio, anche il postare su The Social un brano su YouTube, in realtà, per quanto possa essere interessante, perché comunque è una fonte di scambio, no, culturale, certo, di base è anche molto deleterio, perché poi non l'ascolti mai fino in fondo, no? Cioè non l'hai ricercato, non te l'hanno passato, non c'è un supporto che ti dà un inizio alla fine. E io per primo, che comunque sono sicuramente una persona che ama la musica, quando vedo un brano su YouTube il mio ascolto è sempre super marginale, superficiale, proprio non, anche se magari potrebbe essere un brano con una storia interessante, la perdo totalmente, anche perché io per primo, che insomma sto molto dietro al sound designing e alla qualità del suono, come lo ascolterò questo brano su YouTube? Con le buone casse del computer, che quindi ci fanno perdere totalmente. Se ti va bene con le casse del computer, perché se no la maggior parte delle volte o è l'autoparlante del telefono, o se no sono le cuffie. Esatto, ma esatto. non le cuffie no, di sti gran cazzi, bombe, cioè, le cuffie quelle a un euro al negozino China, esatto. Altre catene che non nominiamo assolutamente, esatto. E quindi la qualità, siamo passati dagli anni, ma anche quando ero ragazzetto, quando ero un pischello io, comunque ancora c'era quest'onda lunga della cultura dell'hi-fi venuta dagli anni 70 e degli anni 80, dove amplificatori valvolari, certo, cioè sì. una serie di ricerca per la purezza del suono. Adesso siamo andati proprio all'estremo opposto. Infatti anche tantissimi produttori discografici, nonché artisti, hanno visto che comunque, cioè, anche se fai un lavoro di ricerca sonora ai massimi livelli, appunto, poi nella maggior parte delle volte non può essere fruibile, perché appunto, cioè, il mezzo in cui il 90% ora è una parola bruttissima, dei clienti o comunque degli ascoltatori se l'andranno ad ascoltare, sarà un supporto che la qualità è una delle ultime cose di cui ti racconto, ecco. Sì. Non solo, ma ci aggiungo anche, mentre giustamente te dicevi che prima c'era una sorta di sfida nell'hi-fi, adesso la nuova battaglia che ormai è in vigore da almeno una decina di anni, si chiama Loudness War. Che cos'è la Loudness War? Loudness War sì, è sì. La battaglia del volume, chi ce l'ha più lungo, chi spacca di più, chi esatto. Ti spacca più i timpani, che è un po' quello che si può anche fastidiosamente notare nei contenuti pubblicitari, ad esempio, no? Si fa caso che il volume cambia in una maniera... Infatti una delle cose classiche che possono ascoltare e rendersi conto tutti, anche solo guardando quel mezzo ormai fortunatamente così obsoleto, almeno nella mia visione, com'è la televisione, c'è proprio una differenza dei volumi tra il programma e il commercial e la pubblicità, cioè anche a volume inalterato ti rendi conto proprio che comunque la pubblicità è data di base, a prescindere, a un volume più alto. Deve richiamare l'attenzione. È quasi più la pubblicità che muove il programma stesso. Esatto, tecniche commerciali che ormai hanno preso il sopravvento. Sì. Assolutamente. E quindi il brano che ci ascoltiamo oggi in questa magnifica copia vinile, che spero in futuro, ma non è adesso il tempo giusto, direi, magari chissà di poter fare anche. Però questa io spero che sia la 001 delle 4. Ovviamente sì, perché è la mia. Qui Veronica carissima, almeno un vinile mio l'ho portato. È un po', come dire, autocelebrativo, perché è il vinile mio in tutti e due i sensi. Però questo è mio, questo me l'hanno questo regalato. È tuo davvero. Grazie. Ed è pure lo 001. Ed è pure lo 001. Meraviglia, andiamocelo ad ascoltare. Questo è Pero. Questo è Francesco. Scusami, Dama, almeno cerco di essere un po' più... Va bene. alzo le mani. No, guarda, con molto dispiacere ti richiamo per questa cosa, per segnalare il nome del progetto, che è Francesco Perissi XO. Il brano è il Broken, ed è il primo brano della seconda fase, che è la fase della rabbia, dell'elaborazione del lutto. Yeah, ascoltiamocelo subito. Sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Però prima di farlo partire, dimmi una cosa, visto che l'hai fatto te. Yes. Dura abbastanza per aprire un'altra bottiglia? Sì, su quello siamo tranquilli. Non è come in Crimson, ma ci abbiamo, poi siamo veloci a perfetto, aprire le bottiglie. No. Abbiamo bisogno di tempo. Sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. però Broken. eravamo lì a disquisire a proposito di un sacco di cose che ci portano dietro questi vinili, oltre, vabbè, al lavoro, mentre ci ascoltavamo il lavoro di Fero, che ormai, cioè, non lo conosciamo. Vi direi di Fero. E eravamo qui con questo bicchiere di questo vino nuovo appena aperto, ma a voi immagino non vi fregherà niente a parte sentire. Vabbè, diciamo, noi continuare sentire nella dinamica delle conversazioni e delle lucubrazioni mentali che ci portano. Giustissimo. E a questo punto direi, ora non mi ricordo più che avevo messo come prossimo disco. Ah sì, ora mi ricordo, perché ho visto cosa mi sono segnato sul taccuino, sulla tracklist, e giustamente dopo Pero vado sul sicuro, uno che già conosco, perché ci ho fatto, già li conosco anzi, però per renderti merito, il prossimo disco sarà dei Weather Report. Che tra l'altro non conosco, però ora li conoscerò. Però li conoscerai a brevissimo, perché lo sai, venendo un musicista qua ospite da me stasera, mi sono sdato, e questo che non trovo nemmeno più, aspettate, perché ce l'ho lì nel grande mucchio dei vinili, non so dove l'ho messo, però cioè, no, ma confidiamo assolutamente. Dai, rubo un po' di tempo, io provo a dire, come dico sempre alla Virgi, tergiversa. Esatto, tergiversiamo alla grande. No, come dicevamo, insomma, parlavamo di questi vinili ritrovati. Ovviamente ogni vinile porta una connessione. La cosa che devo dire più interessante è che voi non lo sapete, ma dopo l'ascolto del mio disco, che quindi insomma possiamo chiamarla musica elettronica. Ah, ce l'avevo qui, e allora era tutta scena, quindi mi chiudo qua. Volevo solamente dire che stavamo parlando di Renato Zero. Esatto. Non si sa bene, ovvero, esatto, perché da finire. Però insomma questo è quanto. Adesso invece andiamo a ascoltarci i Weather Report, che sono un disco ereditato appunto da Radio Comanci. Che dire di più? Se volete informazioni più dettagliate, non posso che rimandarvi alla puntata di Tonight Alive, completamente dedicata ai Weather Report, un gruppo cardine, lo definirei, della commistione che dicevamo prima tra jazz e rock, quello che poi è stata definita fusion. Infatti, cioè, i Weather Report erano strumentisti eccezionali, tutti provenienti dal mondo del jazz, anche solo per ricordare Joe Zawinul, che era il fondatore dei Weather Report, uno degli storici pianisti della formazione elettronica di Miles Davis, della sua svolta elettrica. E qui insieme appunto a Joe Zawinul, a Wayne Shorter al sassofono, altro proveniente dalla formazione elettrica di Miles Davis, c'era anche quel grandissimo, immenso bassista che è stato Jacob Astorius, che ha militato per un periodo tra le file dei Weather Report. E appunto volevo approfittare di questo disco proveniente da Radio Comanci per riallacciarmi alla puntata di Tonight Alive, e qui rimetterò uno dei brani che avevo già messo nella puntata di Tonight, un brano che già dal titolo dice tutto, ovvero punk jazz, composto e arrangiato completamente dal bassista Jacob Astorius, Pastorius, e poi sappiamo che ha fatto purtroppo la fine che ha fatto. Ci sto pensando anche io. Sì, però sì, non volevo essere troppo drammatico, non ma è stata molto allegra. La stessa onda. Esatto, non è stata molto felice, no, anche la sua fine. Perché parlava prima di Syd Barrett, anche lui purtroppo una vita molto molto psicologicamente difficile. Ma forse vedi quando sei appunto quando sei talmente geniale su un lato della tua personalità, ci sta che magari ti manchi degli altri pezzi. E gli Jacopo Pastorius, visto che comunque, come dire, ho detto che non conosco la band e ci tenevo comunque a salvare la faccia, allora racconto qualche assolutamente, non solo, ma anche a rendere omaggio alla mia compagna che è bassista e ci ha dato insomma la maggior parte dei vinili che stiamo ascoltando, e quindi è grande fan di Jacopo Pastorius. L'importanza dell'utilizzo del basso in Jacopo Pastorius è quello di averlo preso e reso uno strumento solista, cosa che non si era veramente mai vista all'epoca, e quindi mentre il chitarrista era sempre in esposizione e il basso era lo strumento d'accompagnamento, Jacopo Pastorius invece improvvisa delle canzoni, delle song dove il basso si espone come strumento solista, fa degli assoli e delle performance di basso solista ed è sicuramente pioniere e apre le porte a un apprezzamento del basso molto più importante rispetto ai precedenti. Senza ombra di dubbio, ti do ragione su questo versante in ambito rock, però come spesso mi capita di puntualizzare, sembra giustissimo, nel jazz questa cosa era già successa, certo. Basti solo ricordare Charlie Mingus, che è stato, penso, cioè per qualunque bassista, però era contrabbasso, sì. Però questa cosa di ogni singolo strumentista che poteva essere un solista viene dalla rivoluzione del bebop, che è una cosa, cioè un movimento, una corrente fondamentale del jazz che parte fondamentalmente da metà degli anni 40. Quindi anche solo per rendere conto a questi jazzisti cosa hanno portato poi anche in ambito rock, perché poi appunto i Weather Report sono stati uno dei trade union del rock con il jazz, appunto sono stati tra i precursori della fusion, senza contare, senza nominare appunto già nominato prima Miles Davis, che è quello che un po' ha creato il tutto di questa commistione. Però sì, assolutamente in ambito rock Pastorius, riprendendolo appunto perché non dimentichiamocelo, veniva dal jazz, certo. Jacopo Pastorius, e ha continuato la tradizione di Mingus e di Earl Hines, un altro grandissimo contrabbassista bebop, e ha fatto assumere appunto un ruolo solistico anche al contrabbasso e al basso, che storicamente insieme alla batteria avevano solamente un ruolo di accompagnamento oppure di puro sostegno ritmico, ecco. Tanto a questo punto vale la pena di ricordare la meravigliosa formazione dei Weather Report, che in questo caso, in questo disco, erano oltre a Jacopo Pastorius al basso, il grandissimo Tony Williams alla batteria, un altro gigante come Wayne Shorter al sassofono tenore, e alle tastiere il fondatore nonché leader dei Weather Report, Joseph Zawinul, E questa, appunto, dopo così tante premesse e così tante chiacchiere, arriviamo al punto. E questa è Punk Jazz dei Weather Report, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. E questi appunto erano i Weather Report. E come sempre, in questo caso con il buon Pero ce l'avamo persi in discorsi riguardanti appunto il free jazz, il jazz rock, la fusion. E mi stavi dicendo, rinfrescami un attimo la memoria, allora, perché mi ero perso. Volevo evitare perché... No, invece io ti avevo detto proprio, appunto, proprio per quello. Diciamolo. Ah sì, no. Esatto, era il discorso di partenza. Sì. Perché diciamo che volevo evitare le critiche interne nell'ambito musicista, che secondo me lasciano sempre il tempo che trova, se non che sono mosse molto spesso da... La problematica principale e più assassina che si ritrova il musicista, ovvero l'ego. Ego, quindi invidie, quindi giudizio, quindi insomma misurazioni dei... Eccolo qua, pure dopo il centrino... No, non è la prima volta che capita, bellissimo. Ci piace tantissimo. Non so qual è, ma io metterei la traccia dove c'è il sol corrotto. Assolutamente sì. E quindi dicevo in breve che mi ricordavo di qualche anno fa che si faceva dei commenti perché vedevo molti jazzisti che a un certo punto passavano alla fusion, no? Come se fosse un'altra scuola politica o scuola di pensiero. E ridevo tantissimo nel sentire i commenti da parte dei rocchettari che dicevano o comunque sostenevano che è il modo migliore di potersi fare le seghe da solo in casa, no? Il fatto di fare fusion, se non che sei arrivato a un livello di conoscenza dello strumento e l'unico modo che hai per dimostrare che c'hai un membro che potresti veramente radere al suolo rifredi è quello di suonare musica fusion, no? E quindi tutti i vari, insomma, i vari suoni di vomitazze all'interno del giudizio. Infatti, invece io contrabbattevo con l'altra parte, ovvero la parte della visione dei musicisti jazz che giudicavano, perché come sempre è sempre una questione di giudizio, è sempre una questione di ego e roba così, dei jazzisti che giudicavano appunto quelli che si avvicinavano al genere fusion dicendo che appunto si erano commercializzati, erano andati verso quella direzione, ovvero verso il rock, alla fusione con il rock, solo per poter vendere, solo per una questione commerciale, perché appunto come stavamo ricordando all'interno del brano, il punto di rottura della storia del jazz, quello che un po' ha rappresentato l'avvento del punk nella musica rock, nel jazz, è stato il free jazz nel 1960 e da quel momento si sono create queste due grandi correnti, ovvero il jazz rock, quello poi definito fusion, e quella che viene chiamata la great black music, che era una musica praticamente solo ed esclusivamente di ricerca, dove cercavi le soluzioni più astruse e più estreme, e quindi per i jazzisti definiamoli intransigenti del jazz, chi si avvicinava appunto a questa nuova corrente aperta da Miles Davis stava solo cercando profanando il jazz, cercando una via commerciale al proprio lavoro e cercando di vendere invece di continuare la ricerca. Quindi mi sembra schiaffi da tutte le parti, praticamente. Come tutte le cose meticce all'inizio, hanno preso da una parte e dall'altra, erano schifati da tutti, poi con tutte le dovute, come si dice, barriere oppure... preconcetti attenuanti dalle due parti, perché poi va bene, cioè se la fusion era commerciale, cioè come definirlo, esatto, no, ma Madonna già insomma cioè no, non so, vagliela a dire che ne so a Gigi D'Alessio, no, non so, capito? Ora si scioglie il microfono, cioè, esatto, oppure da quell'altro lato appunto della visione jazz, andare a fare una musica come quella dei Weather Report vista da delle persone o degli artisti completamente nel pieno del loro tunnel artistico senza compromessi, che ne so, come il collettivo ACM o come gli Art Ensemble of Chicago, i Borbeto Magus, tutti gli improvvisatori radicali dell'Europa del Nord, il jazz rock sembrava una musichetta, anche perché di controparte, appunto, come appunto ti dicevo, diceva sempre il mio mentore, poi in quella che poi viene definita Great Black Music o Free Jazz allo stato più duro e puro, il 90% è cacofonia. Cioè, c'era solo probabilmente un 10% che aveva una vera coscienza di quello che stava facendo attraverso la ricerca, quindi insomma come in tutte le cose c'è sempre da trovare una via di mezzo, ecco. Diciamo che mi dai il testimone perché allora non volevo essere critico perché no qui a Radio sempre, Wombat lo sai che non abbiamo mi sento molto a mio agio a Radio Wombat, sarà il vino o sarà insomma il grandissimo personaggio che ringrazio, il Dama, di avermi invitato. E in realtà io sono uno spirito ipercritico, però insomma, visti i tempi dove c'è quasi molto più tempo per criticare che per ascoltare, cerco sempre di rimanere, come direbbero gli inglesi, polite, no? Cerco sempre di avere un occhio, diciamo, un pochino più distaccato. La cosa che ho capito negli ultimi anni, che per me è stato fondamentale, nel quale non vi nascondo che spesso insomma è un tranello nel quale spesso si ricade molto per deformazione professionale, è il fatto che il musicista non pensa mai all'ascoltatore e invece dovrebbe assolutamente rendersi conto che prima di tutto è un ascoltatore, e allora a quel punto si creano queste fazioni nelle nicchie delle nicchie, dove in realtà se uno un attimo si mettesse la famosa teoria della coda lunga di questi ultimi anni, che poi questa ce ne parli perché non la conosco, quindi è che ormai il settore musicale non è più diviso in grandi generi come il, che ne so, il pop, il rock, jazz, il punk, blues, il punk e il rock, ma sono tutte migliaia di micro nicchie e di etichette che vengono appioppate sopra la musica da parte dei critici e da chi deve recensire un certo tipo di musica, e quindi questa cosa qua ha creato un'iperframmentazione di cui ci sono migliaia di sottogeneri che comprendono pochissimi ascoltatori, ma sono talmente tante che non c'è più appunto questa grande queste grandi divisioni in generi, ma questa cosa della coda lunga, cioè è un diagramma che è una teoria del mercato musicale di questi ultimi anni che è connessa a doppio filo con le vendite, ovviamente, certo, perché certo. È stato uno studio derivato dalle vendite dei lavori degli artisti, che appunto non ci sono più quei grandissimi numeri da decine di milioni di copie di 20 anni fa, ma ci sono tutte queste micro nicchie magari centinaia di copie finite lì, ma sono talmente tante che generano appunto in questa ascissa, in questa coordinata, in questo grafico che appunto prende il nome di coda lunga, perché questa frammentazione infinitesimale in questi numeri diciamo piccoli in confronto alle migliaia di copie vendute, fanno vedere questo grafico appunto che parte altissimo e che ha questo crollo negli anni e poi, cioè, ha questa coda lunga che tende verso l'infinito, come ci insegnava la matematica nello studio dei logaritmi, che appunto è di vendite siamo a numeri che riguardano centinaia di copie, però sono talmente tanti generi diversi che ti creano appunto in questo grafico la quantità globale è la solita, che è, però in realtà è tutta frammentata, che è il, che è il nome che dà a questa teoria, appunto è la teoria della coda lunga. Molto interessante. Dopo questo abbiamo anche la cultura, anzi le analisi sociologiche, cultura su Radio Wombat, a posto. Che non fa mai male. Però passiamo al prossimo disco ereditato da Radio Comanci, dopo tutti questi pompini a vicenda, come direbbero i letterati. Andiamoci a sentire un bel disco degli Yes, e questo è Astral Traveler, dopo tutti questi viaggi che ci siamo fatti noi nel frattempo. Questi sono gli Yes, ovviamente a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. questi erano gli Yes. Non vi ho fatto ascoltare il primo brano, quello con la rottura sul lato del vinile di recupero. Che delusione, ce l'avevi promesso. Sì, ve l'avevo promesso, però... Cioè, avevo, un minimo di, no, insomma, avevo visto che la trasmissione sarebbe stata inevitabilmente compromessa, come puoi ben notare dal bordo del vinile, quindi ho scelto appunto questo viaggio astrale degli Yes, che ci tornava anche con il nostro discorso, perché mi sembra che di viaggi ne stiamo facendo e appunto, quindi, come fare a non mettere un pezzo che si chiama Astral Traveler? Per forza dovevo mettere questo, anche perché appunto quello che sarebbe stato il primo brano, ovvero No Opportunity Necessary, No Experience Needed, sarebbe stato bellissimo, che tra l'altro vedo qui che era una cover di Richie Havens, non era un brano originale degli Yes. Sarebbe stato molto interessante, però appunto, essendo Basement Records una trasmissione sui recuperi dei vinili che hanno più di 40 anni, magari, come hai appena potuto notare, possono avere anche degli inconvenienti insieme a loro. Allora, mi fai venire in mente questa cosa divertente, che prima di essere arrivato alla concezione di un nuovo supporto, che è il cofanetto, mi ero informato sulla storia del vinile, cioè di come è stato progettato il vinile, o se negli anni sono state proposte delle altre alternative. I 78 no? giri in cera lacca, ad esempio. Io che sono da arrivato, dove è partito tutto. Assolutamente, è partito con Edison, il fonografo, sì, certo, eccetera, eccetera. Ma diciamo, per quanto abbiamo dato cultura all'interno di questo programma, adesso darei più ilarità nel dire che ho scovato due cose molto interessanti, ovvero la prima, un vinile fatto totalmente di cannabis. E che fine ha fatto questo vinile? Non l'ho comprato io, e direi è un vinile esiste, di quelli che non ascolti. Esiste molto. Ancora o c'è rimasti i centrini e basta? Allora, io penso che non so quante copie ne sia state vendute, e soprattutto non so come sia andata la spedizione, e, però è uno di quei vinili che sicuramente non è durato molto nel tempo, che dici? Nel senso che uno fa pochi ascolti, magari mentre lo ascolta rimangono poche tracce, però nell'ascolto sicuramente aiuta. Sicuramente. Sicuramente. Cioè, è un po' il discorso anche appunto dei primi 78 giri in cera lacca, cioè il problema della cera lacca rispetto al vinile. Anche il vinile si consuma nei solchi. Si consuma nei solchi, però è vero che è il supporto più duraturo attualmente stanno inventando. Però sicuramente il vinile dura più della cera lacca, infatti... Esatto. Cioè, quelli in cera lacca ormai sono, cioè, giustamente delle rarità, perché appunto si sta parlando di roba di 70, 80, anche 90 anni fa, appunto. E avevano visto che quel sistema di produzione del supporto garantiva l'ascolto, ma solo per un numero limitato di volte, ascolti. Ecco, cioè, in confronto il vinile dura molto molto di più, anche se il vinile, una volta ascoltato tante volte, il solco si consuma, certo, e non certo. Ha più la stessa resa. Nella cera lacca questa cosa era amplificata alla massima potenza, ecco, certo. Che ricordiamo agli ascoltatori che comunque la cassetta e il vinile sono supporti che sono analogici, quindi prevedono una distribuzione fisica del suono, cioè quindi esatto. Nel vinile abbiamo una puntina che consuma, che la, consuma traccia. La traccia, perché il movimento oscillatorio della puntina nel solco. Il solco è un rilievo, appunto, che determina le forme di onda, quindi movimenti dinamici del suono. La cassetta è un po' leggermente diversa perché si muove attraverso il magnetismo, quindi attraverso dei grani magnetici che stanno all'interno della cassetta e che quindi riproducono il movimento del solco. Però se ti ricordi bene, quando eravamo ragazzini e ci ascoltavamo le cassette, quando ti riascolti compulsivamente le cassette, come a me capitava di farlo, tutte le volte che stoppavi la cassetta si creava comunque una distorsione, una distorsione sul nastro, che poi alle volte, se questa distorsione coincideva con ripetuti stop, poi ti faceva avvolticciolare, come ecco, si sarebbe detto qua in Toscana, la matita dentro, esattamente, la quindi fuori. Un ricordo di noi vecchi è appunto inserire la famosa matita in uno dei due fori della cassetta per mandarla avanti e non continuarla a farla avvolticciolare, perché sennò queste gobbe poi creavano un proprio per una questione dinamica, per una questione fisica di lettura del supporto, un meccanismo per cui la cassetta si avvolticciolava su se stessa. Sì. E quindi ti eri lì a cercare di levarlo, che comunque un po' di nastro c'è dentro la cassetta. Esatto, oppure a un certo punto dovevi prendere la vecchia cassetta e ricopiarla su una cassetta vergine. E anche quello, altra esperienza molto emozionante, esatto. di qualche anno fa. E invece il problema dei CD, in special modo di quelli masterizzati, di cui veramente ne ho fatti fuori a pile intere, e i CD invece si smagnetizzano, specialmente quelli masterizzati. Non solo, perché la componente di CD che compriamo rispetto alla componente di CD che sono masterizzati, se non sono di buona qualità, ovviamente perdono le informazioni. La cosa più dannosa dei CD, a differenza delle cassette e dei vinili, è che mentre il vinile e la cassetta, se hanno un problema all'interno del supporto, comunque noi possiamo procedere ad ascoltare i brani. Esatto. La cassetta, il CD, essendo digitale, quindi essendo informazioni binarie che ci sono all'interno, di una serie infinita di zeri e uni. Zeri e uni, esatto. Se si danneggia il CD, sono cazzi. Perdi, oppure come si blocchi la traccia, o si blocca il CD. Come si suol dire nell'Accademia francese, ti attacchi al cazzo. Esattamente. Sul cazzo non ci sono solchi, quindi è un gran casino. Infatti. Siamo a Marcord, via. Sì, questi ricordi dei tempi passati, magari a qualche giovane potrebbero essere ancora utili. E nel proseguo della trasmissione, il prossimo vinile che è finito sul piatto, sempre per proseguire su questa linea. Ora mi infamerete perché vi dirò che è un pezzo di Pino Daniele. Ma Pino Daniele, come si stava ragionando appunto in uno degli intermezzi musicali fuori onda, come tanti altri di cui magari abbiamo un ricordo di infanzia in cui ormai avevano già dato tutto e quindi badavano alla ciccia, e quindi avevo un ricordo, diciamo, estremamente commerciale dei loro lavori e della loro carriera, Pino Daniele è stato un signor chitarrista e un signor session man. Infatti, in questo suo vinile, uno dei suoi primi vinili, ora adesso... questo è un vinile che si chiama, è un album, scusate, che si chiama Bell'Ambriana, immagino uno dei suoi primi dischi da solista, infatti è del 1982, era un signore artista, cioè nel senso, specialmente come session man, era assolutamente apprezzato da fior fiore di artisti. Infatti vorrei anche solo ricordare il resto della band di supporto a Pino Daniele in questa bella Ambriana e troviamo dei signori musicisti. Infatti, cioè, oltre a essere Pino Daniele autore, cantante e chitarrista di questo album, troviamo anche Joe Amoruso alle tastiere, Alfonso Johnson al basso, un grandissimo, Tullio De Piscopo alla batteria, Rosario Germano alle percussioni e niente po' di meno che Wayne Shorter al sax soprano, cioè proveniente dalla, appunto, come già detto prima, proveniente dai Weather Report e ancora prima dalle storiche formazioni della svolta elettrica di Miles Davis. Cioè Wayne Shorter è uno dei grandissimi sassofonisti, in questo caso sopranista, della parte finale del Novecento, della storia del jazz. E insomma, se Wayne Shorter e Alfonso Johnson erano a suonare in un disco di Pino Daniele, questo ci fa ben rendere conto della grandezza dell'artista, nonostante io nella mia infanzia l'abbia sempre e solo sentito definire come pollo fioco. questa mi mancava. Esatto, nella sua parte commerciale finale della carriera, cioè mio padre lo chiamava pollo fioco. E quindi ho sempre avuto questa visione distorta dell'artista Pino Daniele, finché poi per conto mio non sono andato mi è ricapitato appunto per le mani dei suoi primi lavori, ed era un artista di assoluto livello, specialmente all'interno del panorama italiano. Cioè era un signor session man che è stato chiamato a collaborare con dei signori artisti, cioè non è quello del finale di carriera, appunto, con la chitarrina, con il manico mozzato. Esatto, stavo pensando proprio a questo. Esatto. Che comunque, se non sbaglio, o aveva una chitarra fatta apposta per lui, o comunque credo, era un modello. No, credo che fosse fatto apposta per lui. Lui, cioè, comunque mi ricordo un design particolare. Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Cioè quella chitarra senza testa. Senza valetta, non aveva le chiavi, se ti ricordi. Sì, sì, sì. Bianca, può darsi? Mi sembrava fosse color legno, ma magari ce n'aveva più di una di quel tipo lì. Mi viene in mente Prince, era un altro. Esatto, e aveva una chitarra molto similare. Altro chitarrista sottovalutatissimo, altro appunto artista che avevo assolutamente sempre bistrattato nella mia infanzia, e poi ho assolutamente rivalutato nel crescere. È normale, cioè se vedi alla fine, se quello che vivi è quella fase lì dell'artista per riscoprire cosa è stato veramente prima, o c'è un tuo interesse personale o se no l'ambiente ti circonda, il giudizio rimarrà quello. E appunto questo discorso mi fa dire: non vi fermate alle apparenze, ma specialmente in ambito musicale, se dovete dare un giudizio su un qualsivoglia artista o di chiunque pubblichi qualcosa, è sempre bene avere una visione totale, appunto, della sua carriera, e non vedere appunto solo la punta dell'iceberg. Esatto, quella che poi magari è solo il disco del periodo. Ora qui stiamo parlando di grandi che abbiamo nella nostra infanzia abbiamo percepito solo a fine carriera, quindi, come si suol dire, quando badavano a fare ciccia, cioè, fondamentalmente, però dare dare un giudizio, una valutazione senza conoscere appunto tutti i lavori che ha fatto precedentemente ti farebbe avere una visione solo parziale di quello che poi è stato la sua opera d'artista e tutto il suo lavoro all'interno della carriera. Ma al di là di questo pippone in cui, che comunque sottoscriviamo alla grande, al di là di questo pippone, appunto, andiamoci a sentire questa Anna Re, che è un pezzo storico di Pino Daniele, da questo disco Bella Embriana, appunto, con Wayne Shorter, Alfonso Johnson, Gio Amoruso, Rosario Germano e Tullio De Piscopo a dargli manforte nella registrazione. E questa è sempre Basement Records, non ve lo scordate mai, e ovviamente su Radio Wombat. E dove se no? Lascia pazia, perché creduto so che ti finché abito già passi e non resta più posto, di che sei povero. Andare, andare, prova a passare. Cagnato se volete, chi non trova pace e sa contente luce da villi anche se andare, andare. Thank you. Questa appunto era Pino Daniele con Anna Re, un pezzo storico della, dell'inizio della, della sua carriera. Stavamo rimembrando appunto gli eventi felici. Madonna. La morte di tutti gli artisti è fondamentale da conoscere. Cioè, ora noi ci stiamo ridendo, si passa anche come delle merde. No, cioè, senza rispetto. No, ma non stavamo ridendo per quello. Però comunque era nell'ultimo giorno della sua esistenza in questa valle di lacrime, era qua in Toscana Pino Daniele, perché era già un po' di anni che si era trasferito in Maremma. E appunto, cioè, la cosa assurda è che un personaggio pubblico come era Pino Daniele gli è venuto un infarto e non hanno fatto in tempo a salvarlo perché non sono arrivati in tempo. I mezzi non sono arrivati in tempo perché era in campagna. Sì, mi ricordo sta cosa. Non mi ricordo quanti anni fa. Ma è una cosa abbastanza... Ora non mi ricordo esattamente... No, è una cosa abbastanza recente comunque. Anche lui ha lasciato questa valle di lacrime. Appunto, stavo parlando, come si diceva prima, delle varie fasi della carriera. Cioè, se si ascolta questo disco, cioè, si sente proprio che c'è... Cioè, dei signori intento, professionisti certo. nel suonare, ma quello potrebbe essere qualunque session, ma cioè proprio come qualità d'arrangiamento per essere comunque un pezzo pop, certo. Cioè ci sono comunque delle sfumature e dei dettagli, e si sente anche appunto la qualità nella composizione del pezzo. Non era solo per fare ciccia e per trovare il ritornello orecchiabile per poter vendere, cioè c'era davvero un qualcosa dietro. Infatti, come si diceva prima, che si ricordava ironicamente che nella storia del pop italiano ci sono tanti esempi di strumentisti di livello altissimo, visto che prima abbiamo sentito King Crimson. Si parla ad esempio del bassista Tony Levin, che anche lui è miseria uno ladra al mondo. Miseria ladra, cioè... molto bene. E quindi la Veronia sarà contentissima. Alla fine abbiamo parlato quasi più di bassisti che di altri strumentisti, quindi assolutamente forza ai bassoni. E Tony Levin per molti anni nella sua carriera è stato il bassista di Claudio Baglioni, cioè, Baglioni, che ovviamente... e Tony Levin è stato uno dei mostri sacri, un virtuoso assoluto del suo strumento, addirittura a suonare lo stick, che è il basso con, se non sbaglio, 10 corde, perché è metà chitarra e metà basso, è utilizzato anche nel tool di Incrisa. Già viene chiamata bass guitar, il bass a 6 corde, te lo immagini. Appunto, quando si arriva a 10 si perde proprio la testa, insomma. E Tony Levin, con la tecnica del tapping, come se mangiasse un panino e tonno, insomma. Sì, cioè, sì, no, è lì a mangiarsi un tramezzino. Si fa un pocherino, sta roba un manico più grande del collo di ognuno di noi. No, ma è anche solo, cioè, pensa solo a maneggiare un manico con 10 corde, ma 10 corde di basso. Sì, 10 corde di basso, tra l'altro contrario, non sono... Esatto. Cioè, parte come un basso, poi dopo al contrario, dalla più grossa va alla più fine della chitarra, esatto. Quindi con tutta una scalatura, una tablatura completamente diversa. Cioè, che ci sono le chitarre a 12 o anche 7 più corde, 8 corde anche. Però se avete presente una chitarra a 12 corde, sono 6 accoppiate. Certo. E quindi comunque il manico non è che sia un'autostrada. Sì, non è che sia tanto più grande. Cioè, immaginatevi delle corde di basso, già quello che viene chiamato il bass guitar, il basso a 6 corde, comunque ha un manico importante. Immaginatevi un basso a 10 corde, va bene, quelle quattro che aggiungi saranno sicuramente quelle più piccole e non quelle più grandi. però insomma già deve avere una, deve avere una, deve avere una mano importante. Sì, veramente, sì, veramente sì. Come si dice, a lavorare da me c'è una mano che è un badile, cioè, o una penna ad una ruspa, perché anche solo per prenderle tutte, cioè 10 corde di basso, comincia a essere importante la questione. Allora, che facciamo? Mettiamo un altro disco della collezione di Veronica e qui passiamo a un altro classicissimo, direi, della fine degli anni Ottanta, un brano che ha fatto la storia sia del rock che inevitabilmente anche del pop, e questo è Rattlin' and Hum degli U2. E questo è il brano dedicato a Billie Holiday, a cui vi rimando come sempre alla puntata di Tonight Alive, che mi ricordo fu totalmente strappalacrime in quel caso. Beh, Billie Holiday, perché appunto Angel of Harlem, l'angelo di Harlem era Billie Holiday. E che dire, sentiamoci la reinterpretazione in chiave Bono pop Vox rock di Bono Vox and the Edge e compagnia suonante, che hanno dato qua a Rattlin' and Hum un grande classico della fine degli anni Ottanta. Ovviamente sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat, e dove se no. Yeah. No, che eravamo qui a disquisire, appunto, come sempre su delle questioni musicali. Appunto, il buon Pero mi stava rivelando una cosa per me assolutamente sconosciuta, ovvero per lui come chitarrista, cioè The Edge è stato uno assolutamente degno di nota nel suo strumento, mentre io l'avevo sempre scagato e infamato. Beh, direi che non avevi assolutamente tutti i torti, perché capisco che, diciamo, non è seriamente un virtuoso e non è seriamente... No, ma al di là del virtuosismo, Esatto. Però, diciamo, nel panorama ampio di chitarristi e chitarrismo può venire sottovalutato. Invece The Edge, confesso di averlo scoperto attraverso un film molto carino che segnalo, che è un film con la regia di Jack White, quindi chitarrista dei White Stripes, dove all'interno ci sono... Cioè il suo progetto più famoso via sono gli White Stripes. E lì, infatti, rimando anche, sempre per non sembrare troppo politically correct, che a me invece infamo tantissimo Jack White, invece al buonissimo Dama qui presente mi faceva notare che anche lui è degno di nota, quindi ognuno sempre c'ha ma è anche questo il bello del confronto nel... in qualunque cosa che riguardi un qualunque ambito artistico, perché comunque uno può avere una sua impressione su un artista, però se qualcun altro ti dà il suo punto di vista correlandotelo, appunto, delle argomentazioni magari ci può stare, anche perché si ricollega al tuo discorso di prima, che giustissimo, che comunque noi vediamo la punta dell'iceberg dei lavori, e ovviamente nella miriade dei lavori che ci si presentano non possiamo sempre avere il tempo e la voglia anche di approfondire, avere lo stimolo esterno, esatto, per approfondimento, esatto, si può far capire un po' cosa si cela. E quindi semplicemente in questo film, dove abbiamo Jimmy Page e Led Zeppelin, The Edge degli U2, e io dico ahimè Jack White, che si ritrova in mezzo a degli dei, non si sa bene per quale ragione, però giustamente, siccome siamo un sistema democratico, appunto, io avrei il detto nostro caro Dama ci spiegherà il motivo. Io avrei detto la stessa cosa di The Edge. Capito, quindi da qualunque punto lo guardi, è bellissimo avere tanti punti di vista. Ma e... stiamo parlando della stessa cosa, quindi cioè, immaginatevi voi. Quindi The Edge ci mostra e arriva seriamente all'orecchio il fatto che comunque il sound che costruisce, che non è per niente banale, cioè l'utilizzo di molti delay, di molti echi e soprattutto di uno strumming molto particolare e molto deciso, che se ci pensiamo in un gruppo scarno meglio due, dove abbiamo seriamente una voce eccelsa di monovox, ma abbiamo una batteria e un basso che per quanto siano seriamente groovosi e siano belli puntigliosi, non seriamente non riempiono lo spettro armonico musicale, la chitarra di The Edge fa il suo santo porchissimo lavoro nel riempire tutto questo ambito compositivo, e il sound di The Edge in particolare, che poi possiamo seriamente dire, e qui spezzo una lancia nei confronti della presa di posizione del Dama, che non è che fa, cioè ne ha fatta una e la fa per 30 anni, insomma, un po' alla Ligabue, no? Però questa cosa è a fare. No, perché poi, siccome in questi giorni un conto è fa la solita cosa per 30 anni e ha inventato qualcosa di tutto tuo. Cioè, un conto è fa la solita cosa per 30 anni usando le solite merda per 30 anni. Usando le solite tre note, che poi rifacendosi appunto a minimalisti newyorkesi, cioè averne usate solo di tre note, come la Montreal, come li usi, insomma. Perché proprio questi giorni parlavamo di Ligabue, perché non so se ultimamente è uscito il film o qualcosa del genere, allora mi veniva in mente questa cosa, che c'era dei meme divertentissimi sul fatto che Ligabue è uno dei personaggi più presi per il culo. No, magari nel momento in cui mi dovessi trovare con dei problemi di stipsi, probabilmente andrei a fare delle ricerche su genere, però per ora non la prende male. Anche se gli stuzzini che abbiamo assaggiato durante... Anche se, guarda, visto che c'è un ospite di tale livello stasera a questa trasmissione, dovrò rivelare degli scheletri nell'armadio che tutti abbiamo del buon Dalai Lama, e ti dirò che Ligabove fino al rifacimento del disco degli R.E.M. At the End of the World As We Know It, ovvero A Che Ora È la Fine del Mondo, che nel caso di Ligabue era un EP, però gli album quelli prima, nella mia fischellaggine, cioè io li ho ascoltati parecchio, perché comunque c'erano i Clandestino a suonare insieme a lui. Ancora non c'era Capitan Fede Poggi Follini, c'erano i Clandestino, che comunque era una band con i Controcoglioni, e si rifaceva, diciamo, prendilo con, sì, cioè, con le molle, le con, pinze, le mo- con quanti, tutte le molle dei termini, perché stiamo parlando sempre di chi stiamo parlando, però avevano un senso di esistere comunque anche in ambito pop. Poi vabbè, che no, ma guarda, tanto ho già citato la parola outing, faccio outing anch'io, cioè, più outing di così, no, cioè, siamo a dei livelli, ho detto, cioè, che mi piacciono i primi due album, i primi due album e mezzo, visto che alla A Che Ora È la Fine del Mondo era un EP. Cioè, mi piacevano e l'ho ascoltato tanti, ce l'ho in cassetta, ce l'ho ancora. Addirittura. Ragazzi, e l'ho ascoltato tantissimo. Possiamo ridire e ribattezzare il fatto che Damo ha detto che gli piace Ligabue. Ci tenevo a dirlo senza rumori di fondo. Cioè, questa ormai è estradizione dal Radio Wombat. Io esatto, ve lo dico. Cioè, la prossima puntata non sappiamo chi sarà il nuovo conduttore. O se non il Dama non lo sappiamo, perché probabilmente il Dama verrà lapidato al Rifredi, sì, cioè, speriamo ci siano pochissimi ascoltatori dal resto dei componenti di Radio Wombat. Però ormai il vino ha fatto il suo effetto, e no, allora non si può più fare niente. Pezzo di nuovo un'altra lancia nei confronti del nostro fantastico presentatore, perché devo dire che assolutamente sì, io non so se è il primo o il secondo lavoro, ma pezzi come Bar Mario, ma anche Leggero, che mi viene in mente. Leggero era già quando aveva venduto il culo. Porca troia, quindi vabbè, io però parlo di anche Leggero non era niente male. Come Lambrusco, Coltelli e Popcorn era il titolo di secondo album. Ma dove c'è Viva o È il Momento di ma quello è già dopo, è già dopo quando ormai, cioè, aveva già capito l'antifona, ormai insomma. Aveva già gli accordi erano già stati scritti e portati lì si era già due e mezzo, diciamo. Cioè, lì tre accordi erano all'inizio, lì si era già si era su due e mezzo, secondo me c'era già un semitono o meno. Perché lui, come dicevamo della fusion, che a un certo punto i nostri amici jazzisti decidevano di andare a fusion, il nostro amico Ligabue ha scelto per la carriera il minimalismo. Quindi sempre andando verso i nostri amici newyorkesi, il suo risultato, non sappiamo se ci è arrivato, perché nessuno di noi ha avuto il coraggio di ascoltare gli ultimi lavori, immagino, probabilmente siamo arrivati a un accordo. Allora, dopo questo penso che ci sia della gente che ci stia suicidando. C'è Cage e Kale che si sono tagliati le vene non per orizzontale ma per verticale, proprio, cioè a prendere proprio tutta la vena dell'avambraccio, e stanno morendo tutti. Si è impiccato perché non ce la poteva fare, esatto. E quindi, detto questo, che dire. Vabbè, facciamo così, guarda, per chiudere questo armadio con dentro un sacco di scheletri, ormai a questo punto, che in questo armadio sembra quasi, cioè, una fossa comune. Sì, direi, cioè, facciamo così, visto che siamo nella fase finale, io passerei a ricordare gli appuntamenti di domani di Radio Wombat, ovvero di domenica. La domenica inizierà alle 10 con Container, grande contenitore di interviste e di approfondimenti e di chi più ne ha più ne metta delle ultime settimane. per poi passare a mezzogiorno col favoloso notiziario anticlericale, che però se non l'ha mai sentito io ti dico che ne vale assolutamente la pena. Già dal titolo, ma secondo me il titolo non rende merito poi al contenuto del programma, che è veramente da non perdere. Poi alle 14, alle 2, la replica di Coccole al Silicio, e alle 3 e mezzo, una volta al mese, Poyuit, il programma nato come prosecuzione del Festival della Letteratura Sociale, quindi un programma estremamente culturale, di letteratura e di tutto quello che ci gravita intorno. Poi la trasmissione appena nata, una delle new entry del palinsesto di Radio Wombat, che vi sollecito sempre a ricontrollare, perché le novità non si fermano mai, ovvero alle 17 Walk Wops, il nostro contributo sulle questioni americane fatte proprio con corrispondenze in prima persona dagli Stati Uniti d'America, che ci renderanno conto un po' delle ultime evoluzioni in terra americana. Cioè, in questi ultimi giorni ci sono state anche ultimamente appunto le elezioni tra Biden e il buon Donaldo Pump, e vedremo un po' come sarà andata a finire. Non vi voglio anticipare niente, anche se probabilmente lo saprete già. Vediamo bene. E poi alle 18, assoluta replica, anzi no, che replica, diretta come tutte le domeniche, la domenica di musica classica di Radio Wombat, con La Fuga del Gatto, con Bloody Mary e la Virgi, che allieteranno la nostra domenica pomeriggio di ripresa dalle fatiche del fine settimana con della gran buona musica classica, per poi passare alle 22 con la replica di Uru, la trasmissione ormai storica presente fin dagli inizi sul palinsesto di Radio Wombat, un punto sulla musica e sulla cultura africana e sugli ultimi eventi che riguardano l'antichissimo continente. E questo, direi, ormai siamo a questo punto giunti, come diceva il pescatore, acqua fina coglioni e pesci punti, e quindi dobbiamo lasciare il fine settimana ai nostri ascoltatori. Io non posso che continuare a augurare un buon fine settimana a tutti e una buona prosecuzione di ascolto sulle frequenze di Radio Wombat, e di rinnovare l'invito qua al buon Pero per un prossimo avvento qui sulle frequenze di Radio Wombat. Non importa neanche più che vieni nella mia trasmissione, ormai va indosifare, però se vieni da me meglio. Beh, direi, considerando il trattamento per adesso, io vorrei molto venire da te, perché mi sono trovato molto bene, a mio agio. Porterò delle altre bocce di vino. Okay. No, quello stavo dicendo. Porterò delle altre bocce di vino, e quindi un buon fine settimana a tutti. E ci risentiremo e ci aggiorneremo con la nuova puntata di Tonight Alive sabato prossimo, sempre qui sulle frequenze della leggendaria Radio Wombat. Un buon fine settimana a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Wombat! Grazie.